Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti e benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto, all'interno della programmazione serale che si chiama Blu Radio Sera. Oggi è martedì 29 maggio del 2012, sono le 21 e 3 minuti primi. Buonasera da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara, che insieme a me conduce questa trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche in questo caso abbiamo sconfinato dal nostro Veneto, abbiamo ospiti che arrivano dalla Lombardia in questa serata, da Como e provincia, per parlarci del loro nuovo lavoro, che dopo sapremo da loro il titolo. Ma intanto diamo il benvenuto ai Club Voltaire. Buonasera ragazzi. Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori. Buonasera. Allora, Club Voltaire, innanzitutto fatto buon viaggio, perché sono ben 3 ore di strada ad arrivare alla nostra redazione. Beh, buon viaggio sì, un po' di traffico. E quello 4, c'è, sì, nella 4 è inutile parlare di strada scorrevole, in effetti non ci sono mai segnalazioni particolari se non sempre di traffico intenso, esatto. Soprattutto nelle ore in cui abbiamo deciso di farvi partire dalla vostra bella città. Allora, Club Voltaire sono venuti qui a Blu Radio Veneto per parlarci, ma non solo parlarci, anche farci ascoltare qualcosa del loro nuovo lavoro e qualcosa anche del lavoro precedente. Quindi, allora, innanzitutto diciamo che i Club Voltaire in formazione base sono 4, e per la versione live, e quindi per la presentazione del disco in questa serata, abbiamo Matteo e Nicolò, quindi ecco qua, altresì detti anche Matt e Nick. Sì. Ecco qua. E quindi salutiamo chi ci sta comunque ascoltando a distanza tramite lo streaming audio. Chi salutiamo allora? Beh, sicuramente salutiamo anche gli altri due, che sono, volendo ben vedere, anche il pelato e il grasso, se uno sì. sta guardando le fotografie. Perfetto. Poi dopo noi non torneremo più a casa dopo sì. questa dichiarazione. Certo. Comunque salutiamo Lorenzo e Antonio. Benissimo, allora un saluto a Lorenzo e Antonio, se poi vorranno intervenire alla trasmissione, perché no, anche a livello telefonico magari... qualche minuto possiamo parlare anche con loro. Benissimo, e allora poi magari ci metteremo in contatto con loro, ma cominciamo dal vostro nome, perché incuriosisce parecchio chi sa di storia, chi sa di arte, di letteratura e cultura in genere. Un po' un'idea su Club Voltaire se l'è fatta, ma vogliamo una conferma anche da voi. Allora, perché Club Voltaire? Ma il perché sarebbe da chiedere principalmente alla persona che non è qui, che è quello che ha avuto l'intuizione, che è Lorenzo. E perché ci piaceva il significato sicuramente di quello che è il Club Voltaire, dal discorso dadaista, da quelle del locale di Zurigo e tutto quello che ci sta intorno, ma più che altro era un qualcosa che ci contraddistinguesse avesse anche quel sapore un po' vintage che ci piace avere, certo. Sia per un discorso un po' francese, che quello riguarda un po' più il mio lato, e anche per un discorso più magari legato anche agli anni 60, al club, la Swing in London. E quindi partiamo dal discorso artistico dadaista, sì. E quello che era intorno al Club Voltaire, quindi questa idea libera d'arte che sì, quindi essere. L'arte che andava contro l'arte, esatto. No? Quindi una specie di futurismo magari un po' distruttivo, però in un'altra maniera, esatto. No? Diciamo. Quindi l'arte di non fare arte, ma comunque creare sempre delle serate alternative dove si poteva comunque gustare dei buoni spettacoli, e in questo insomma hanno insegnato molto per quello che riguarda l'arte alternativa. Esatto, poi non vogliamo fare assolutamente quelli con la puzza sotto il naso, che abbiamo detto abbiamo fatto chissà che cosa, e poi ci piaceva, suonava bene, abbiamo detto perché no. Quindi... perché no? Allora noi vi diciamo perché sì, ecco, bravi. Esattamente. Realtà... Club Voltaire, assolutamente interessante. In realtà questa è la spiegazione che diamo per pavoneggiarci. Esatto. Poi in realtà la nascita del nome è stata questa: Lorenzo viene in saletta, ho trovato un bel nome, suona bene, Club Voltaire, va bene, ok. È finita esatto. Così praticamente. È finita così, poi dopo ci siamo costruiti tutto. 4 voci differenti, 2 chitarre, una batteria, cioè 4 voci differenti che si amalgamano, si costituiscono, fanno un insieme unico. Come mai questa idea di 4 voci differenti? Ma ci piaceva questa cosa ed è una delle cose che in realtà vogliamo recuperare, di quel tipo di sonorità vintage a cui ci ispiriamo. Cioè uno pensa subito magari a sentire i nostri suoni così e si ferma lì, no? Invece ci sono certe pratiche, ad esempio proprio il fatto che nelle band, anche quelle molto famose, molto conosciute, non sia facile trovare una situazione di una situazione vocale che possa comprendere tutti gli elementi. Esattamente, hai detto una cosa giusta, non è, è difficile trovare quattro voci che non, so, non c'è un frontman vero e proprio, ci sono quattro voci e questo è importante. Cosa che invece appunto avveniva ampiamente negli anni 60, difficilmente in un gruppo sapeva cantare uno solo. Certo. Comunque dava, cioè, la voce era unica, c'era sempre comunque il contributo importante, c'erano tanti, tanti nomi che magari conosciuti come chitarristi e poi dopo scoperti dopo che invece avevano delle grandissime doti vocali quando magari hanno fatto le loro carriere soliste. E quindi stiamo lavorando tanto per questo, anche in vista dei, dei pezzi futuri, per, prima di tutto per migliorarci e poi per comunque migliorare la resa vocale, insomma non è facile. Diciamo, perché quindi è difficile costruire un pezzo sapendo che ci sono, ci sarebbero state quattro voci da, per poterlo cantare al limite, o no? Partiamo sempre anche da un fatto compositivo, tendenzialmente chi porta il pezzo, chi scrive il pezzo lo canta. Arrivando anche da esperienze precedenti dove ognuno di noi aveva anche proprio il ruolo di frontman, diciamo. Certo. Quindi è un discorso, abbiamo detto, vogliamo fare un discorso così, cantiamo tutti, perché no? Soprattutto partire anche dal discorso cori, seconde voci, che secondo noi è molto basilare nei nostri pezzi, mentre si è andata un po' a perdere, soprattutto negli ultimi anni. Cioè, canta uno, fa lui i cori. Certo, hai citato i cori. Esatto. Di recente è stato celebrato il 42esimo, sì, anniversario della nascita di Pet Sound, quindi disco principe dei Beach Boys, disco principe dei cori. Quindi esatto. Il coro e le voci che si amalgamano fra di loro è fondamentale, non solamente in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti. Quindi è una cosa unica. Malgrado noi a volte, soprattutto io, tendiamo a dire gli Stati Uniti, no, noi siamo inglesi, così, filo britannici, Pet Sound rimane uno dei primi 10 dischi che noi prendiamo in considerazione. Certo, Pet Sound non ha confini, non è americano-inglese, è Pet Sound e basta. Bene, allora direi che abbiamo parlato a sufficienza per introdurre un po' l'ambiente Club Voltaire, questo ambiente che non vuole essere snob, vuole essere filo dadaista ma non troppo, e insomma adesso cerchiamo di comprendere meglio attraverso la musica di che pasta è fatto il gruppo dei Club Voltaire. Ecco qua la prima canzone. Blu Radio Sera. You're the next. disco invasione. Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato il primo pezzo dei Club Voltaire, abbiamo capito la loro musica così da poterne parlare più approfonditamente. In particolare abbiamo ascoltato un pezzo tratto da About the Surface, che è il loro primo disco per quanto riguarda la loro presentazione di questa loro musicalità davvero particolare. Il pezzo che ci siamo ascoltati si intitola The Next, ovvero solo Next. Allora, visto che abbiamo qui Club Voltaire, ne approfittiamo per chiedere. Allora, i testi innanzitutto sappiamo che sono tutti in inglese, però qualcuno di curioso va sempre a vedersi un po' anche la traduzione per capire meglio di cosa cantate. Allora, Next dice: quello che voglio è il tempo di cambiare, avanti il prossimo. È più o meno così la canzone? Bah, sì, diciamo di sì. Cioè, il discorso, è bello soffermarsi sui testi, anche se ognuno, a me piace l'idea che ognuno ci dia l'interpretazione che vuole. Cioè, l'intento, soprattutto per quello che riguarda il mio modo di scrivere, ma penso di parlare per tutti e quattro, è il discorso di dare delle immagini. Come un quadro, uno vede l'immagine e ci legge quello che vuole, sia che sia un quadro impressionista, che sia un quadro astrattista o postmoderno. Cioè, ognuno ci vede quello che vuole, e questo è quello che, creando un insieme tra testi e musica, mi piace che la gente possa recepire anche delle nostre canzoni. Questo musicalmente è un pezzo colorato nel senso positivo del termine, un sacco di riferimenti, un sacco di suoni che avete messo assieme, avete di frullato musicale nel senso positivo, chiaramente. Perché questa idea di frullato musicale, questi suoni che si rincorrono uno dietro l'altro, poi questa chitarra quasi psichedelica, centrale, quasi trasgressiva, come mai? La musica, la chitarra, tendiamo sempre ad avere una chitarra un po' ruvida, soprattutto molto ruvida, pezzo. Molto ruvida, esatto. In alcuni momenti, e forse anche un po' per andare a scontrarsi con quella che è la melodicità delle voci nostre, certo. Principalmente l'intento di avere qualcosa di diametralmente opposto ci interessa molto, mischiando appunto le sonorità che ci piacciono, perché si va a prendere questo pezzo a un non so che di vintage, ma anche qualcosa di moderno, di vista. E poi è una particolarità di questo pezzo, te vorrei dire te prima a microfono spento. Sì, questo è stato il secondo singolo del disco di About the Surface. About the Surface è uscito a febbraio del 2011, sì. giusto lì? Sì, questo, sì. Perfetto. Nel 2011 noi abbiamo fatto uscire un singolo che ha anticipato il disco, e come secondo singolo, in concomitanza con l'estate, abbiamo fatto uscire Next. Singolo che abbiamo proposto in questa forma particolare, che è stata questa Echo Card. Bisogna fare una premessa: noi in realtà About the Surface l'abbiamo proposto in forma digitale, scaricabile dagli store principali, e anche sotto forma di download card. Download card praticamente non un CD, abbiamo scelto un formato che sotto tanti aspetti di vintage ha veramente poco, di conveniente a tanto, nel senso che ci ha permesso questa cosa di diffondere con una certa facilità, anche facendone proprio un discorso economico, nel senso abbiamo potuto, a parte quello che ci potevamo permettere noi, ma soprattutto mettere a disposizione un prodotto che costasse una cifra molto ragionevole, soprattutto per le persone che non ci conoscevano, no? E è stata una scelta piuttosto vincente, nel senso che comunque abbiamo avuto un ottimo riscontro. L'abbiamo riproposta per il singolo in una forma particolare, che era questa Echo Card. Un Echo Card, perché Echo Card? Perché tra l'altro ci ha permesso anche di vincere un premio. Molto curioso questo, esatto. Perché avete vinto al IMEI questo al premio, sì. Soprattutto per l'originalità della tecnologia musicale, sì, la tecnologia in musica, diciamo. Per questo discorso è un Echo Card, cioè una card appunto di download come l'altra, solo composta in carta riciclata con all'interno dei piccoli semi di fiore che piantando la card, cioè, ci piaceva l'idea dell'ecologico, cioè, e del discorso musica e fiori, cioè, non per poter poi stare sempre sul discorso anni 60 o questo punto di vista, ma più che altro perché ci piaceva l'idea adesso che uno dice ok, il CD lo metto impilato nell'armadio, la card la metto, la scarico e poi la butto via, qui ok, tu puoi scaricare la musica, poi ok, invece di buttarla via, piantala che ti crescono dei fiori. Quindi ci piaceva questo senso ed è quello su cui abbiamo improntato appunto l'uscita di questo singolo. E dopo, voglio dire, i fiori devono essere costantemente annaffiati per farli vivere, altrimenti la card poi scade. Sì, sono fiori di campo in realtà, quindi c'è... Si diventa illegali nello esatto. Scarico della musica. No, comunque questo, il singolo era tratto da, appunto da About the Surface, che è questo nostro primo EP, malgrado il lavoro che proponiamo adesso nuovo sia una sorta di prosecuzione e completamento di quello... Leggermente qualcosina si allontana per ampliare un discorso. Esatto, per portare a quello che poi è l'intento verso la fine dell'anno, certo. Di far uscire il nuovo lavoro completo. Bene, allora, visto che i Club Voltaire sono venuti a trovarci qui a Blu Radio Veneto muniti di batteria in modo molto, come dire, primitivo, spartano, ecco, e con una buona chitarra, allora perché non ascoltarli anche in versione live per carpire anche una nuova maniera di proporsi al pubblico, appunto, in versione acustica? Diciamo una sorta più che sì, nuova, guardando al vecchio, un po' schifo, diciamo. Vedendolo un po', ci sarebbe servita una washboard, e allora da quel punto di vista saremmo stati perfetti. Bene, allora cosa ascoltiamo in principio di live? Ascoltiamo quello che è stato il nostro primo singolo, tratto da About the Surface, che è I'm Loving You. Eccoli qua, Club Voltaire, Blu Radio Veneto. There's a fact from the beginning that I will respect. Your kisses are so special that I can't forget. But I know your troubles, I know. I ask you to remember the day after death. It was a fucking crazy and I overcast. But I know your troubles, I know. Your direction back. This is your mistake that I don't understand. But I know your troubles, I know. I'm sure you're sure that I'm loving you. I'm sure you're sure that I'm loving you. Thank you. Your kisses are so special that I can't forget. But I know your troubles, I know. I'm sure. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Si intitola I'm Loving You. Questa è una canzone proposta dai Club Voltaire, tratta dal loro lavoro datato 2011, quindi qualche mese fa. About the Surface, il titolo del CD, tutto bello colorato tra le altre cose. Poi torneremo sul tema della copertina, ma adesso parliamo di questa canzone appena ascoltata in versione live solo per chitarra e voci, le voci di Matteo e di Nicolò dei Club Voltaire. Allora, la canzone dice I'm sure that I'm loving you, e questo nonostante i tuoi cambiamenti, nonostante i tuoi problemi, nonostante tutto. Quindi è una conferma che uno si ama incondizionatamente. Beh, quello sicuramente, cioè è volutamente una canzone d'amore, pur a volte non essendolo per forza, però c'è quello che si vuole trasmettere, proprio rimanendo sempre in un senso di torniamo sempre lì, un discorso legato al mondo anche vintage da questo punto di vista, quindi ricalcare quella tipologia di canzone sia testualmente, sia a livello di testo, sia a livello musicale, che a livello di voci, appunto riproponendola a due voci assieme. Eh sì, importante, riproponendo a due voci insieme, cioè queste due voci che si amalgamano fra di loro, ed è stato difficile, non è stato semplice riproporre in questo momento live a due voci, molto scheletrico ma molto divertente, molto accattivante, quello che serve secondo me. Tra l'altro, sempre per legare il discorso vintage col discorso moderno, abbiamo parlato prima delle card con cui avevamo utilizzato il singolo. Questo è, lo è tuttora attraverso il nostro sito, era stato lanciato in download gratuito per presentare quello che era il progetto. In che maniera? Gratuito, come tu lo scarichi, ci lasci il tuo contatto, che sia una mail per poterti ricontattare oppure un like su Facebook, cioè poi se ci metti un piccolo like sulla nostra pagina Facebook hai il brano gratuito. Quindi sempre questa idea di mischiare la nostra musicalità un po' vintage con idee anche più moderne. La tecnologia praticamente. Esatto. Perché l'idea come mai l'idea della tecnologia è nata, si è sviluppata? Tu l'hai spiegato prima certamente, ma l'input, come è nato, come è partito l'input? Beh, principalmente penso per un discorso, il mercato discografico, come tutti sappiamo, sì, è inutile stare qui a ripetere, è in crisi, eccetera. È in crisi, quindi vintage siamo sì per certe sonorità, come la musica fruiva liberamente molto, in maniera molto più semplice una volta, certo. È giusto trovare anche adesso nell'attualità degli escamotage per far sì che ci sia quel sapore di una volta, sì, anche che abbia un certo senso questa, esatto, fruibilità. Ho capito, benissimo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con i Club Voltaire per la presentazione dei loro nuovi lavori, e per saperne di più comunque c'è un sito a disposizione, oltre che una pagina su MySpace c'è anche Facebook. Il vostro sito, quello ufficiale, clubvoltaire.net. All'interno di questo c'è spazio per un po' di la biografia del gruppo, per conoscere un po' più da vicino, e poi naturalmente anche una cosa utilissima, i testi delle canzoni, pur sempre in inglese, che però sono assolutamente molto facili da tradurre, forse anche solo con un Google Translate. Ecco, frasi semplici. Così come sono stati scritti. Esatto. Ah, per quello. Questo è. Beh, comunque sì, è confermato che probabilmente avete scelto l'inglese come forma di espressione musicale, perché è quella che forse risponde meglio anche alle vostre sonorità. Beh, in una dichiarazione recente di uno dei nostri componenti, creazione di redditi? No, questo non è il periodo. Esatto, siamo lì, ma è meglio evitare, perché purtroppo con la musica di redditi ce n'è anche pochi. Sì. Però una dichiarazione è stata: il rock è inglese, quindi per noi, anche per le nostre sonorità, era normale andare in quella direzione. Sì, anche se poi comunque è sempre una questione di attitudine, cioè non portiamo di certo avanti battaglie. Assolutamente. Sul fatto, sulla predominanza di una o delle altre lingue. Noi parliamo una lingua meravigliosa, molto musicale, ricca di sfaccettature, così per attitudine, anche per esperienza passata di tutti, siamo sempre stati più abituati magari a scrivere in inglese e quindi ci è venuto naturale, comunque a prescindere da qualsiasi altro discorso. Poi qualcuno potrebbe anche benissimo fare la stessa musica che facciamo noi, scrivere in italiano ed essere altrettanto efficace, ecco. Però con la R che mi ritrovo io al massimo avrei potuto fare delle cover di Guccini, però o di Renzo Zenobi, ecco. Sì. Bene. Allora, ascoltiamo ancora qualcosa del vostro lavoro, presentando qualcosa di quello. È quello nuovo, no? Quindi sì, è il Fluorescent Stream, esatto. No? In questo caso. Allora lo proponiamo in questo momento e poi torniamo a commentarlo insieme. Va bene. Benissimo. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Club Voltaire in questa serata di martedì 29 maggio del 2012 all'interno di Blu Radio Sera. Diamo ancora il benvenuto ai ragazzi Club Voltaire che ci sono venuti a trovare da Como. Sono solo in due, quindi salutiamo Nick e Matt, però da lontano sappiamo che sono in ascolto, perlomeno vogliamo crederlo positivamente. Salutiamo anche Tony e Lore, che qualcun altro ha definito, non importa, non diciamolo, non diciamo, invece. Vabbè, non comunque diciamo. Ok, allora abbiamo ascoltato questa Fluorescent Stream, che tratta è la prima parte del vostro nuovo lavoro, chiamiamola così, che si intitola A Beginner's Guide to Good Manners. Come mai un titolo così lungo per presentare il vostro nuovo lavoro? Soprattutto per presentare una sorta di singolo lato A e lato B, cioè la cosa è voluta soprattutto per la contrapposizione che caratterizza i due pezzi, che sono uno, come abbiamo potuto sentire adesso, molto rock. Molto rock, molto aggressivo. L'altro sì. Invece, chiamiamolo più delicato, diciamo. E quindi, avremo modo di ascoltarlo più tardi. Quindi, cioè, parlando appunto di buone maniere, far vedere il doppio lato della medaglia. Sì, certo. La facciata rock, come avete detto a microfono spento. Tra questo... altre cose, vai. Scusa Maurizio, volevo dire, invitare anche gli ascoltatori ad andarlo a vedere, quella che è la presentazione all'interno del vostro sito con tanto di caffettiera. Come mai un video così particolare, un po' fuori, diciamo? Ma perché appunto, parlando di buone maniere, perché nelle buone maniere una tazza di tè il pomeriggio non fa mai male, quindi era un po' voluto da quel punto di vista. E parlando di questo pezzo, voi mi avete detto a microfono spento che fa iniziare il concerto o è una parte centrale del concerto, fa la seconda parte. È un pezzo molto rock, molto aggressivo, come ha detto Flavio, e a me interessano le sonorità. Sonorità molto trasgressive, chitarra molto ruvida, molto lanciata, un assolo centrale abbastanza lungo e ripetuto, quasi ipnotico. Dimmi. Sì, allora non sei il chitarrista, lo so, però non possiamo parlare. Certo, assolutamente. Sì, questo è stato, prima di tutto una curiosità, questo è stato in realtà il nostro primo brano scritto insieme. Ah, ok. È stato il primo brano, è stato, diciamo così, escluso dal primo lavoro, nonostante già ricoprisse comunque un ruolo fondamentale nei live. L'abbiamo escluso perché comunque volevamo dare una certa importanza, cioè volevamo dare un certo senso al primo lavoro, e questo pezzo credevamo... è una chiave di ponte al prossimo. Sì, esatto. Paradossalmente, pur essendo stato il primo pezzo, è più una chiave un ponte verso il prossimo lavoro. Quindi le sonorità sono molto rock, c'è questa contrapposizione, che poi è anche la contrapposizione che c'è tra i nostri due chitarristi, cioè tra una chitarra, quella suonata da Lorenzo, quella ritmica, molto più, diciamo, sonorità molto più crunch, sporche, contro invece la contrapposizione di Antonio, che usa questi suoni tendenti molto, cioè magari anche più distorti, anche più acidi, anche più psichedelici, se vogliamo definirli così. Quindi c'è questo tipo di contrapposizione che alla fine siamo riusciti a, crediamo quantomeno, a trasmettere. Noi questo pezzo l'avevamo in realtà registrato per una compilation un anno e mezzo fa, credo. Sì, sì, e il risultato... compilation di musica della locale della nostra zona. Purtroppo il risultato è stato disastroso, nel senso che ce l'hanno veramente... mixato, malissimo. E allora abbiamo ripreso tutto, ci siamo fatti restituire le nostre tracce. Ho capito. Abbiamo ripreso tutto, l'abbiamo quasi del tutto reinciso, una buona parte, e l'abbiamo reinciso nel nostro home studio. Noi abbiamo la grande fortuna di poter disporre di una sala e di un home studio a casa di Nicolò. Di Nick. E quindi l'abbiamo ripreso in mano e appunto... La sfida più grande è stata quella di restituire al pezzo, cioè quella carica che ha dal vivo, però in un prodotto da disco, e non è una cosa facile. Noi, nel senso, conosciamo assolutamente i nostri limiti, quindi abbiamo dovuto lavorare tanto per riuscire a dare ai suoni, non devono essere eccessivamente sporchi perché non doveva essere un live, ma allo stesso tempo doveva avere trasmettere quello stesso tipo. Un pseudo live però lo era. Sì, sì, in realtà però appunto nella nostra versione live è anche un po' più duro anche. Sì, a volte anche un pochino più duro. Però appunto non è facile, soprattutto quando poi ti autoproduci, certo, riuscire a registrare e a ridare quel senso ai suoni, soprattutto le chitarre. Visto che Nick è qua, che è bassista, adesso mi dici che tu hai parlato di una solo particolare del basso portante su un certo verso del pezzo. Sulla parte di strofa, diciamo che oltre alla parte di chitarra, a livello ritmico, il basso con la batteria tendono a dare questo ritmo più incalzante sulla parte di strofa. Se diciamo dirti come è nato la parte di basso, ti dico intuitivamente, scrivendo il pezzo la prima sera, e da lì è rimasta come parte centrale e parte fondamentale della parte di strofa. Benissimo. Bene, allora adesso diamo ancora un piccolo spazio live, ne approfittiamo sempre della vostra batteria e della vostra chitarra, nonché delle vostre voci, per una canzone live tratta da About the Surface, e in questo caso diamo spazio a The Floor. Esatto. Eccoli qua, Blu Radio Veneto, il Club Voltaire. Try to Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua in rigorosa diretta, rigoroso live, questo di martedì sera, martedì 29 maggio 2012, ancora con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, insieme a noi Club Voltaire, una band che è venuta direttamente da Como a trovarci per presentarci questi due lavori, il primo completo, il secondo in fase di costruzione, come si diceva prima, il singolo A e B della nuova, diciamo, versione dei Club Voltaire. Un altro pezzo tratto da About the Surface, questo ascoltato dal vivo, si intitola The Floor. Allora, brevemente, The Floor, di cosa parla? Beh, Nick, manca l'indiziato principale, che è Lorenzo, che è quello che ha scritto il brano, e quindi la domanda andrebbe posta a lui principalmente, quindi dire non sono io, ripeto, poi il nostro intento è ognuno che legga i testi e lo ascolti la musica e ci colga quello che vuole, quello è la cosa che ci interessa di più. Io ho trovato un pezzo molto pop questo qua, in questo momento, in questa versione, assolutamente. Beh, è una cosa positiva, decisamente. Ma noi ci definiamo rock, ma diciamo pop che... nel senso ampio del termine, esatto, come popular. Popular, ma è quello che a noi piace, cioè anche certi riferimenti che abbiamo noi di gruppi, pur essendo rock, della scena britannica, sono estremamente pop, e anzi pop è anche un senso bello, perché vuol dire che arriva alla gente, quindi è una cosa molto importante. Certo, certo. Beh, quindi, è arrivata a noi, chiaramente, che siamo qua in questo momento. E già qualcosa, perché due persone sono sempre meglio che nessuna. Beh, oltre a quelli che ci stanno scontando, chiaramente. Noi pensiamo e crediamo ci vogliono ascoltare in molti, soprattutto perché in queste fasi serali di Blu Radio Veneto si cerca sempre di proporre musica alternativa e parlare di musica, quella che contraddistingue il sottobosco musicale, che è sempre, comunque, sempre molto ricercato. In questo periodo dove i grandi cantanti danno quella musica che definisco mordi e fuggi, invece ci vuole qualcosa che resti, e in questo caso noi cerchiamo, e in questo caso abbiamo trovato i Club Voltaire, che secondo noi fanno il caso nostro, il caso di Blu Radio Veneto. Allora, diamo ancora ascolto a un altro pezzo del vostro nuovo lavoro, e guardando la scaletta, in questo caso è il turno di Foolish Green, e poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Drink only coke for a long time. Give Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Club Voltaire, About the Surface, si intitola il lavoro, diciamo il titolo del disco di cui facciamo suonare 7 tracce. Foolish Green è questa canzone che ci siamo ascoltati, una storia all'interno di Foolish Green, di un uomo che desidera farsi conoscere e poi ancora vuole piangere, vuole cantare. C'è un uomo al centro di questa canzone. Assolutamente sì, sì, sì, quello è la parte centrale, che può essere un po' chiunque da questo punto di vista, perché è un po' il discorso della notorietà, del volersi far vedere e del voler a volte comunque stare comunque da solo, e a volte, malgrado la notorietà, essere al centro dell'attenzione, volersi porre a tutti i costi al centro dell'attenzione fa anche rimanere da soli e piangere e desiderare altro, desiderare altre situazioni, quindi vuole un po' incentrarsi su questo gioco. Posso essere io che ho scritto la canzone, ma come non posso essere io, cioè riferita anche ad altre persone. Matteo voleva parlare, ritornare un secondo al discorso di Flor prima. Sì, nel senso che parlando appunto dei testi, no, c'è questa cosa, generalmente, principalmente gli autori dei testi sono Lorenzo Nicolò, la loro contrapposizione è abbastanza evidente anche nei testi, nel senso testi come quello di The Flor sono sicuramente testi molto più intimi, molto più che guardano a se stesso. Volendo vedere anche sotto certi aspetti più crudi e anche più di impatto. Invece Nicolò scrive più, appunto, come diceva anche prima lui, sicuramente più per immagini, più anche per concetti a volte anche astratti, e tutti e due si prestano abbastanza bene a diversi tipi di interpretazione. Però se uno guarda un attimino con attenzione i nostri testi, può abbastanza facilmente capire dopo un po' da chi provenga un testo piuttosto che un altro, senza neanche ascoltare la canzone, che quello poi in realtà potrebbe non dire neanche nulla in realtà su questa cosa, sull'autore, non sempre quantomeno. E questo è un pezzo scritto da Nicolò, quello abbiamo sentito adesso è un pezzo scritto da te, praticamente è un pezzo che ha in chiave di lettura blues, poi diventa accattivante un ritornello e poi ritorna in chiave di lettura blues. Ma voleva essere, cioè, anche questa differenza, normalmente ho nasco come chitarrista, io suono il basso, però questo è un pezzo che è nato dal giro di basso, ad esempio l'ho scritto partendo da lì, di cui poi dopo con i ragazzi abbiamo realizzato tutta la parte ampliato, certo, strumentale, però si basava quindi su questo giro molto bluesy, quindi assolutamente legato a quella tipologia di mondo, e voleva dare un discorso, chiamiamolo, più elegante, più incravattato anche, cioè immaginando sempre ad immagini anche la musica, l'idea di una persona quasi da, diciamo, anche crooner da questo tipo di questo punto di vista, quindi immaginarselo anche cantato da una situazione del genere, quindi l'idea era proprio di creare questo mondo intorno, sia sonoramente sia a livello testuale, e quindi mi piaceva questa scelta che mischiasse il discorso più blues a un discorso anche pop da questo punto di vista. Ok, certamente. Bene, allora ancora spazio alla musica, riprendiamo in mano quel disco formato da due canzoni che si intitola A Beginner's Guide to Good Manners, e in questo caso ci ascoltiamo quella che viene definita la canzone pop melodica, quindi il lato B, anche se non è proprio vero che è un lato B, quindi inferiore al lato A che abbiamo ascoltato prima, con intensità sicuramente diverse, e allora eccola qua, si intitola Penny Afternoon. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci siamo ascoltati un pezzo davvero dal pop molto educato, come l'avete definito nella vostra recensione, un brano che dura 2 minuti e 30 ed è proprio lo stampo giusto di una musica che poteva essere scritta negli anni 60. In questo caso Penny Afternoon, loro i Club Voltaire invece 2012. Poteva essere rimandato a tanti anni fa, non c'entra niente, però mi ricordava Lazy Afternoon dei Kings. Vi ricordate Lazy Afternoon esatto. dei Kings? No, era un pop, era Ray Davis praticamente. Ray Davis non è quantificabile, non ha categorie, e lui e basta. Lui faceva di tutto, quindi andava dal rock al pop, alla rock opera. È stato il primo Arthur, vi ricordate Arthur? Grande rock opera sua che molti hanno dimenticato ingiustamente. Ritorniamo a voi, Ray Davis è sempre là che suona. Magari Ray Davis nel nostro disco possiamo dire che c'è una sorta di tributo. C'è un tributo, mi fa esatto. molto piacere questo. Dopo bene. Magari lo ascoltiamo. Bene, esatto. Certo. A proposito di tributi, vorremmo capire un attimino anche quelli che sono i gusti musicali di Club Voltaire, che non ascolteranno solo musica di Club Voltaire. Cerchiamo di rendere il più, come dire, stringato possibile il capire quella che è la vostra, diciamo, provenienza musicale completa, anche di quelli che sono magari nomi di gruppi o di cantanti e album di riferimento. Quindi direi, visto che siamo in due, che siete in due su quattro, vi lascio 5 titoli a testa. Ma e 5 artisti, naturalmente. 5 titoli, vabbè, per quanto riguarda me, guarda, io potrei tranquillamente dirti dei Beatles, un disco io ti direi Sgt. Pepper, perché normale, e poi per quello che riguarda sempre di derivazione Beatles, che per me è l'immagine principale, che è Paul McCartney, ti direi anche come disco solista Flaming Pie, disco del 97, che per me è un disco favoloso. Quindi perché hai scelto un disco un po' non amato moltissimo dalla critica? Un post Wings. Ma molto post Wings. Molto post, ma è un disco con cui sono cresciuto, perché comunque avevo, quando è uscito avevo 13 anni, quindi mi è piaciuto subito, alle sonorità, soprattutto è un disco che McCartney scrisse dopo aver composto l'anthology dei Beatles, quindi dopo l'uscita, quindi molto influenzato anche dalla riscoperta di tale materiale dei Beatles, che aveva un po' perso anche nel periodo Wings e del periodo anni 80. Quindi quelle sonorità sono quelle che mi hanno formato insieme a Sgt. Pepper, e quindi sono quelle che sento più mie. Calcolando che poi, uscendo da questo seminato, un altro disco per me fondamentale a livello musicale è Acton Baby degli U2, dove secondo me sonorità che con noi c'entrano anche poco, perché comunque soprattutto come disco degli U2 è il disco del cambiamento degli U2 nel 92, con questa elettronica, questi suoni molto da dance tedesca, quindi duri, decisamente molto, duri, molto duri, con la voce di Bono che per me rimane, come poi quella di Paul McCartney, uno dei fondamenti. Quindi come terzo disco ti posso dire questo. Come altri dischi rimango sempre forse su un discorso moderno, perché ti posso dire gli Oasis, e così come gli Oasis sono rimasto molto colpito da quello che è l'ultimo disco di Noel Gallagher, che si sposa totalmente con quello che è il mio concetto di musica al momento. Quindi ti direi tranquillamente High Flying Birds dei Noel Gallagher, High Flying Birds, e quindi siamo a 4, ho detto. E come quinto te la butto lì, ti butto lì un Rush of Blood to the Head dei Coldplay. Ha citato i Coldplay, vedo. Succede raramente, ma anche i Coldplay insegnano. Vabbè, allora abbiamo sentito i gusti musicali, le provenienze artistiche di Nick, e adesso tocca a Matteo. Ok, questa da buon batterista, cosa ci dici? Questa penso sia la peggior domanda che io cioè è una domanda che veramente mi mette in difficoltà, nel senso che domani potreste cambiare gusti, ma diciamo quelli di stasera. No, non quello, più che altro perché mi è proprio difficile, non sono una persona che fa tanto le classifiche, però vabbè, dai, qualcosa tiriamo fuori, sì, dai. Ho avuto qualche minuto per pensarci. Allora, facciamo così, siccome comunque sono abbastanza vario nel mio ascoltare, che in generale io, ecco, esatto, non sono tanto volubile, al massimo faccio nuove scoperte, ma quello comunque di vecchio non lo abbandono quasi mai. Per quanto riguarda i Beatles, credo che forse diciamo o Revolver o facciamo Rubber Soul? No, io sono più tipo su With the Beatles, Hard Day's Night, ecco così. Quindi all'inizio di carriera, presunta sì, tale, appena iniziata. Il che non significa che non mi piacciono gli ultimi dischi, perché assolutamente non sarebbe un grave errore. Per noi, ma questo è il nostro, possiamo dirlo tranquillamente, il nostro filo conduttore, siamo in quattro, penso che dal primo all'ultimo disco di Beatles classificarli è quasi impossibile. Sì, no, infatti, cioè, esatto, questa è la bene, cosa. Bene, allora, vai con i Beatles 1. Vai con i Beatles 1. Facciamo così, me ne gioco due con i Beatles, quelli che vi ho detto. Facciamo così, With the Beatles e Revolver. Certo. Facciamo così. Poi, facendo un salto molto in avanti, allora direi, considerato, anni 80, vabbè, perché ci sono stati gli anni 80 nella musica? Questo, okay. Sì. No, niente, li saltiamo. Qualcuno vorrebbe cancellarli, però non è possibile. Io non sono d'accordo. Ecco. No, ma neanche io, in realtà ci sono delle buone cose. Degli anni 90 ti dico due dischi, ti dico un disco che è uscito nel 96, che secondo me è un disco che mi ha cambiato completamente la prospettiva, che è OK Computer dei Radiohead. Ha cambiato a tanti la prospettiva. Ecco, esatto. Io non l'ho messo nei 5, ma c'è anche Radiohead. A tantissima gente ha cambiato la prospettiva. Poi direi il disco, l'omonimo disco dei Blur del 97, perché comunque loro hanno sempre rappresentato per me uno di quei gruppi che davvero ha sempre fatto la sua musica davvero, si è trovato pop pur non sposando mai neanche un cliché, cioè famoso, si sono trovati addirittura agli inizi della carriera paragonati a una sorta di boy band, invece erano un gruppo che semplicemente faceva una musica molto particolare, molto unica, A volte i dischi sono anche, non sono neanche facili da sentire dall'inizio alla fine, però io trovo che sia un disco straordinario. Poi, a dispetto di quello che può sembrare, sono anche molto legato, stato molto legato alla scena punk hardcore, quindi comunque americana, statunitense, in generale. Posso darti, cioè è difficile darti un titolo, però ti posso dire un disco in particolare che è Punk in Drublic dei NoFX, che è un disco che mi ha cambiato, ma più che altro perché era un periodo particolare, mi ha dato una bella strigliata. Vai sul pesante alla grande. Sì, ma poi trovo anche pesante che nel senso che non li mandano a dire quella gente là. No, esatto. Non li mandavano a dire. No, esatto. benché se io ti dico, non è, cioè, è stato un disco più importante, non quello che preferisco, cioè per introdurmi in un certo giro. E invece adesso, vabbè, io ascolto molto più cose, in realtà mi sono dato molto l'acustico, anche un po' al panorama indipendente americano, così. Ti dico che se adesso dovessi andare via, c'è un disco di una formazione che si chiamano Iron and Wine. Bravissimi, sono bravissimi, eccezionali. Ecco che... sposiamo al 100% il Perfetto. Tuo giudizio. Io ti posso dire un disco che si chiama Our Endless Numbers Day, che è un disco, secondo me, cioè bellissimo, benché poi non sto qui a disquisire originale meno, io trovo sia un disco bellissimo. Posso aggiungere solamente, poi finisco, poi do la parola a Flavio. A me piace anche Bon Iver, che è similare, non dico quasi vicino, ma molto similare. Ah, ecco, guarda, no, me ne gioco un altro. Vai. Dai. Me ne gioco un altro. Vedi che non volevi fare le classifiche, però adesso pian pianino, eh. Mi gioco questo disco di una band che tra l'altro avrò la fortuna di vedere tra pochi giorni a Milano. Si chiamano Death Cab for Cutie. E il disco si chiama Plains. È un disco che è uscito, credo, nel 2006. È un disco, cioè, per me è un disco straordinario, dall'inizio alla fine molto intenso. Loro sono un gruppo eccezionale, che hanno fatto un percorso che raramente ho visto fare, un percorso di evoluzione che raramente ho visto fare ad altre band nell'ultimo decennio. Questi non li conosco, Flavio. Bene, comunque adesso ci documenteremo, non possiamo sapere tutto. Allora, abbiamo capito anche i gusti musicali dei Club Voltaire, cosa va di moda nei loro apparecchi CD, nei loro MP3, nei loro vinili, se ce li hanno. Ecco, ecco, benissimo, perché nonostante la giovane età c'è già un buon profumo di vinile nella vostra casa. Allora, e visto che prima abbiamo parlato di Noel Gallagher, al quale voi siete affezionati, diciamo, è una delle musiche del periodo che vi piace, e avete preparato, se non sbaglio, anche una cover. Ma così ho detto, perché non provare un pezzo, mi è venuto naturale preparare questo, quindi vi proponiamo uno di quelli che è stato il singolo dell'ultimo disco. Ripeto, prima ho detto Noel Gallagher, io sono molto filo Oasis, lui ha parlato di Blur. Io molte volte quando scrivo più alla maniera Blur, volendo ben vedere, sì, quindi c'è pura, molto più duro. Mi piace molto anche quel discorso, quindi c'è legato dall'infanzia agli Oasis, quindi più che altro è la battaglia rimane lì, però questa è If I Had a Gun di Noel Gallagher. If I had a gun, I'd shoot it all into the sun, and love would burn this city down for you. If I had the time, I'd stop the world and make you mine, and every day was still the same with you. Show me how it might have been if all the tears we cried to fade away. I'll be by your side when they come to say goodbye. We will live to fight another day. Excuse me if I spoke too soon. My eyes aren't always followed you around the room, 'cause you're the only girl that I would never. hope I didn't speak too soon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only girl that I would never need. I'm holding on, I'm waiting for the moment for my heart to be unbroken by the sea. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ascoltati anche un pezzettino di Noel Gallagher, If I Had a Gun, per capire anche quella che è la canzone che i Club Voltaire hanno voluto fare in versione live, rendendo omaggio degnamente a Noel Gallagher. Io allora, ho fatto questa domanda mentre il pezzo andava a praticamente a Nick. Perché Noè e non Liam? Sai che c'è la leggenda metropolitana che all'ultima partita del City, per non incontrarsi, uno è stato allo stadio e l'altro non era presente. Certo, no? Certo, sì. Allora, Nico. Ma io sono sia per Noè che per Liam. Diciamo che a livello di immagine, sin da certi tempi, Liam Gallagher è lui, è il frontman, è la voce. Però c'è Noè, è quello che ha scritto sempre tutti i pezzi e ha una gran voce anche lui, come si è potuto sentire nella sua versione, non nella mia, giustamente. Però è sempre stato un po' il fratello per cui ho sempre parteggiato io, quindi un po' per quello, fondamentalmente. Si ricostituiranno ancora, secondo te? Secondo me arriveranno. Arriveranno questo. Sì, sì. Anche secondo me. Anche il FIBA, voglio dire. Sì, appunto. Esatto. No. Faremo anche noi come Elio una canzone Oasis tornate insieme. Esattamente. Quindi. Bene, quindi si può fare, si può fare. No, anche perché, voglio dire, dopo con le coppie famose si sono fatti anche i quattrini nel campo musicale, per cui vuol dire che se manca qualche... un po' di soldi, un po' di sterline da quelle parti, cioè è necessaria la ricomposizione. Assolutamente. Beh, dubito che quei pezzi, soprattutto Noel, con i pezzi che ha scritto, dubito che gli mancheranno mai dei soldi a livello di diritti d'autore, però quantomeno. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando e ascoltando le canzoni dei Club Voltaire, una band che è venuta a trovarci da Como. Per saperne di più si può anche andare a curiosare nel loro sito internet clubvoltaire.net, scritto Club Voltaire, .net, ricordiamolo anche all'italiana. E ne approfittiamo per salutare il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che tramite lui siete venuti qui, e quindi diciamo che Alberto sa scegliere sempre molto bene le band. Lo ringraziamo. Sì. E salutiamo, perché no, anche Sonia, che è qui con noi, con voi, vi ha fatto compagnia anche durante la strada, adesso sta prendendo giù anche delle immagini, se non sbaglio anche video, per documentare quella, esatto, che è la serata. Sì, Sì, noi amiamo circondarci di donne. Esatto. Bene, perfetto. Fatto benissimo. Siccome non ci stavano tutte le amiche in macchina, non si poteva noleggiare il pullman, allora avete scelto Sonia come rappresentante degna di tutte le vostre fans. Benissimo, ne approfitto per ricordare anche i nostri ascoltatori che alcune immagini di questa serata saranno posizionate all'interno del nostro sito internet, nella pagina che è dedicata ai Club Voltaire, quindi ci sarà lo spazio per vedere le foto e poi anche per ascoltare quella che è stata la diretta, quindi per riascoltare anche questa cover di Noel Gallagher, non solo, anche per ascoltare gli altri brani che normalmente all'interno di About the Surface sono in versione da disco, in questo caso in versione live e acustica soprattutto. Ha suonato qualcun altro nel vostro disco oltre voi quattro? Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere, che ci ha assistito a livello di tastiere e suoni vari in alcune situazioni, il fratello del nostro batterista, Davide. Perfetto. Quindi ci ha dato una mano da quel punto di vista, visto che noi siamo a volte, cioè, ce la caviamo bene con tutti gli strumenti, però una mano non fa mai male. Esattamente. Anche in questo caso Matteo è anche figlio d'arte, si può dire così, no? Sì, esatto. Perché già, esatto. Anche il papà canta e suona, quindi sì, esatto, è un vizio di famiglia. Sì, è un vizio di famiglia, un bel vizio. Direi, sì, assolutamente, sì, assolutamente un bel vizio. Una famiglia molto musicale, non solo da parte sua, mi ha trasmesso la passione sin da piccoli, sia a me, a mio fratello, così, e insomma, noi questa passione poi non l'abbiamo più abbandonata, non l'abbiamo mai abbandonata, chi in un modo, chi nell'altro, quindi sicuramente un ringraziamento va a lui, a parte per il fatto di avermi aperto la strada stasera qui. Ma... Sì, perché è venuto a trovarci qualche mese fa, suo papà. Parlando... Sì, ricordiamo Tiziano cantatore. Esattamente. Esatto, sì, parlando poi della sua esperienza molto buona, allora ho colto assolutamente la palla al balzo per farmi avanti. Comunque dicevo, sicuramente un ringraziamento particolare, e credo questo anche valga anche per Nicolò, nel senso, quando si ha in famiglia una persona o più persone con passione forte è importante per tanti aspetti, cioè poi uno può anche assolutamente ignorarlo, oppure possono nascere... eccezionali musicisti da famiglie che la musica non hanno mai vista, però comunque penso che sia importante crescere in un ambiente così, e ha fatto bene sia a me e sia a lui. Assolutamente. Mi ricordo che con tuo papà abbiamo fatto un lungo discorso bellissimo su Phil Oakes e tutto il cantautorato americano, una cosa meravigliosa. Esatto, esatto. Cose molto auliche, direi. Assolutamente, assolutamente. Bene, quindi c'è un filo americano all'interno della famiglia e un filo inglese in questo caso, un filo brit. Sì, sì, anche se appunto in realtà proprio se parliamo delle mie preferenze moderne, io personalmente non trovo granché, soprattutto tra i nomi grandi, però è assolutamente una mia questione di gusti, parlo di band inglesi. Io proprio... attualmente guardo più alla sponda americana, però questo non significa niente, ci sono certe cose assolutamente che sono dei punti fermi e quindi anzi suo padre stesso filo americano, ma sì, esatto, fan sfegatato, cioè, di Beatles, sì, indubbiamente, assolutamente fan numero uno della famiglia, insieme. Bene, allora torniamo a parlare di Club Voltaire, un altro pezzo dal vostro About the Surface, in questo caso diamo spazio a On Your Shoulder. Blu Radio Sera. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo imparato e stiamo ancora apprendendo notizie sulla musica dei Club Voltaire, che sono venuti a trovarci qui a Padova, alla redazione padovana di Blu Radio Veneto. E allora, due i dischi che ci stanno presentando. Il primo si intitola About the Surface, un disco formato da 7 tracce, e poi A Beginner's Guide to Good Manner, quindi una guida alle buone maniere per i principianti, così vuole essere il titolo, con due pezzi che sono un'anticipazione di quello che sarà un loro prossimo lavoro. Anzi, poi naturalmente, quando ci salutiamo, strapperemo l'invito per un prossimo appuntamento qui, sempre sulle nostre frequenze. Allora, On Your Shoulder, quindi sulle tue spalle. Esatto. Come mai questo anche titolo? Qua, questo è un pezzo del nostro chitarrista Tony. Quindi è proprio di sua mano, una ballata proprio d'amore, diciamo, struggente quasi. Sì, diciamo che l'ha scritta in un momento in realtà molto diverso da quello che vive attualmente. Esatto. Nel senso, ha scritto in un momento sicuramente dove era più rilassato, diciamo. Sì, da una parte era più rilassato, dall'altra era anche forse più scontento di certi aspetti. Esatto. Adesso invece, in questo momento, probabilmente sarà felice. È molto a felice casa, anche con i suoi due bambini. Ah, sì. I bambini, esatto. Due gemelli, quindi, che gli riempiono le giornate, di cui in è tutti molto i sensi. Contento. Esatto. È meno rilassato, ma sì, è molto più contento. Certo, certo. Sì, esatto. E mentre il pezzo andava, parlavamo con i ragazzi, è un grande tiro questo pezzo, secondo me. Sì. Finale decisamente potente, un grande tiro, cioè dà proprio la sensazione di un pezzo molto tirato poi alla fine. Ah, questo è bello, come appunto dicevamo adesso, è proprio il bello che ognuno ha un suo giudizio. Oggi abbiamo ricevuto una recensione positiva del disco che parlava di questo pezzo come il pezzo debole, uno dei pezzi deboli del disco. E in realtà, cioè, secondo noi è, non vogliamo definirla una chicca, un qualcosa di diverso, proprio che si stacca molto anche dalla tipologia di scrittura mia e di Lorenzo, e quindi ha un suo perché. Pur essendo una ballata, la componente del tiro era qualcosa che noi volevamo fortemente ci fosse, soprattutto nella parte finale. E probabilmente il recensore questa diversità, non so, a suo parere l'ha un po' messo fuori campo, fuori strada, forse. Esatto, e ha giudicato il pezzo così, in forma negativa. Secondo me, secondo noi, no. Io l'ho sentito. Anche non perché può farci lui, che piacere. Lui è pagato per fare il recensore, quindi per criticare. E noi no. Di solito chi critica non sa fare musica, per cui, esatto. Quindi, o perlomeno il musicista vuole pensare a questo. Generalmente dicono, se, poi dopo questa dichiarazione ci faranno solo che... Generalmente chi recensisce viene detto che sia un musicista che non ce l'ha fatta. Sì, mancato, o, dicono. Esatto. Quindi. Certo. Comunque, vabbè, che se ne parli bene o che se ne parli, esatto, male, purché se ne parli. Che se ne parli. Ecco, sì, quindi, così, quindi si dà modo, se non altro, di poter farla ascoltare anche ad altra gente incredula del, diciamo, del risultato positivo o negativo che uno può dare. Comunque, Club Voltaire, secondo noi è un buon lavoro questo di About Surface, e siamo curiosi di conoscere quella che sarà la continuazione di quel famoso A Beginner's Guide to Good Manners, un titolo lunghissimo che ha bisogno di una copertina assolutamente a tre ante, diciamo così. Bene, esatto. Allora, un altro pezzo da disco, visto che abbiamo ancora del tempo per stare insieme, e allora direi di proporre quella che è la traccia numero 4 del disco. Si intitola Cock Song Dirty, e poi torniamo a commentarla insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. We'll be right back. Blu Radio Sera. Troppo presi ad ascoltare Cox Song, ha portato qualche distrazione anche in regia, era troppo bello il ritmo, prendeva veramente tanto e faceva pensare anche ai brani del passato, sempre di questo volutamente sì. Brani del passato. Allora, questo Cox Song Dirty è il, diciamo, il sottotitolo, dove dice: sono nato sporco alla fine di tutto. Quindi è riassunto un po' di questo personaggio che poi dice uno sporco che comunque si può, come dire, si vuole riadattare alla vita, vuole rientrare nella società. Sì, diciamo che allora questo pezzo nel disco lo canto io, ma in realtà è stato scritto comunque da Lorenzo, che un giorno è arrivato in saletta e mi ha detto in una maniera che, con la solita democrazia che lo contraddistingue, sì. Ho scritto un pezzo, lo canti tu. Ah, va bene. Perfetto. Ok, perfetto. Ho scritto questo pezzo volutamente un tributo principalmente alla musica dei Kings. C'è un legame stretto tra comunque i suoni ruvidi e il testo, non a caso appunto anche il titolo stesso ha questa parentesi, questo dirt. Il titolo invece, Cox Song, è uno stupidissimo gioco di parole che ha anche, diciamo, ha una lettura poco nobile che tralasciamo e l'altra invece poco nobile comunque, vista sì, che è legato sì, poco nobile, però anche l'altra ha dentro appunto la parola Cox, è scritto con la X e si rifà al nome del chitarrista dei Blur, che è Graham Cox. Anche lui famoso, benché in chiave molto più moderna, per sonorità, diciamo, non propriamente pulite, non propriamente. Il pezzo, appunto, come ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, le lyrics, diciamo, sono di Lorenzo e si vede, nel senso, comunque c'è proprio tutto lui, il suo carattere, e il suo modo di essere, che non è assolutamente una persona ruvida, nel senso di, diciamo, tagliata giù con l'accetta, come si suol dire, assolutamente. Però appunto certi conflitti, certe cose sentite, anche questo è un pezzo in realtà molto, molto intimo, benché poi lui me l'abbia concesso con grande tranquillità, no? Però è un pezzo comunque molto suo, assolutamente. Noi custodiamo, c'è una curiosità, custodiamo ancora il foglio su cui Lorenzo ha scritto le parole e che abbiamo usato anche durante le registrazioni, che è diventato il nostro sottobicchiere per mesi, quindi si sono accumulate macchie di qualsiasi bibita o cose del genere, è ancora lì che aleggia nella nostra saletta, quasi a ricordarci, no, esiste sempre la plastificazione del momento, nel senso, per renderlo anche poi ai posteri, per creare un quadro, no, ma per proprio dire... per la tipologia di canzone era voluto che voluto si distruggesse così, esatto. Quindi arte non arte, si ritorna al tema dadaista già discusso in principio di trasmissione. Allora, in mezzo agli artisti che avevate citato prima, si parlava anche di Beatles per 2, 3, 4, 5 volte. 8, 10, 20, 1000. Quante sono le canzoni dei Beatles? Allora, tra tutte le canzoni avete scelto una cover. Sì, diciamo che allora, noi per stasera abbiamo fatto due cover che generalmente proponiamo solo in quelle situazioni in cui appunto suoniamo in acustico. Nella nostra scaletta, nella nostra tracklist ufficiale, certe cover girano, diciamo, le due stabili sono sempre state due pezzi che era veramente improponibile pensare di fare stasera. Una è Taxman dei Beatles e l'altra è Can Explain degli U. Quella è durissima, quindi sì, esatto, quindi farla... cioè, non avrebbe molto, ecco, senso. Un altro gruppo che non abbiamo ancora citato, che è qualcosa, cioè, che è molto presente in quello, sono gli Who. Sì. Quindi sempre comunque scena britannica, anche, e non disdegniamo, ci sono dei pizzichi di Rolling Stones in giro, quindi ci sono sempre queste presenze aleggianti sopra di noi, quindi ci piace. Musicalmente sono proprio, cioè, i riferimenti, parliamo per chi non è qui, sono i riferimenti proprio di Lorenzo, sono questo genere di chitarristi, quindi comunque questi ritmici comunque anche se inaspettatamente molto tecnici, anche pur, esatto, pur non lasciandolo vedere, o comunque più che tecnici, capaci da soli di sorreggere non un gruppo, ma potrebbero sorreggerne d'anima, diciamo, tre, esatto, quindi gli Stones, eccetera eccetera. È un altro personaggio molto fondamentale, soprattutto per Lorenzo, ma per me e per tutti noi, a livello di carattere britannico, è sicuramente Paul Weller, quindi cioè, è importante citare anche lui, certo, meno nelle sue abitudini, meno nelle sue abitudini. Beh, quello è un altro par di maniche, esatto, ma musicalmente è un grande personaggio. Compreso l'ultimo disco? Sì, bello anche l'ultimo disco. Ma io ho apprezzato anche l'ultimo disco, sinceramente. Malgrado già partendo dal penultimo sia un qualcosa di diverso, io amo di più Weller, soprattutto in situazioni come You Do Something To Me o altri dischi, diciamo più seconda metà anni 90, quindi quella tipologia lì che aveva anche un non so che di vintage, Come On Let's Go, queste tipologie di pezzi anche inizio 2000, quindi però c'è molte cose interessanti anche in quella, soprattutto nella sua voce, perché comunque ha una voce molto presente, diciamo che non è un disco da primo ascolto. Ricordo la nostra faccia, io e Nick eravamo, esatto, in macchina dopo che lui l'aveva acquistato e l'abbiamo ascoltato un attimo e la nostra espressione era di, cioè, detto, una cosa agghiacciante. Invece poi è un disco che comunque va ascoltato, va capito. La critica che fanno a Weller, che fa tante cose, tante, esatto, canzoni, e tante canzoni qualche volta, tante canzoni sono tante cose belle, qua ci sono delle perle negative, e quella è la critica recentemente che fanno. Beh, quello che ha, secondo me, di importante lui è veramente la voce, è una cosa che per noi è fondamentale, è che quando registriamo l'idea, la voce in faccia, così dire, sì, la voce in faccia tipica di situazioni come i Beatles stessi, sia Lennon che McCartney, ma anche Harrison, quindi questa voce molto presente, o un altro personaggio che è molto importante, soprattutto per me, Lorenzo, che è Rod Stewart, quindi quella tipologia di voce importante, quindi c'è quello che a noi piace di queste canzoni, di questa tipologia di musica. Ascoltiamo adesso le voci importanti di Club Voltaire. Va bene, se okay, vogliamo definirle così. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can go on, feeling 2 foot small. Everywhere, people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm. How could she say to me, law will find a way? Gather round all you clowns, let me hear them say. Hey, you got to hide your love away. Got to hide your love away. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Club Voltaire, anche nella versione beatlesiana, in questo caso Nick ha ceduto la chitarra a Matteo, il batterista ufficiale della band, che per l'occasione è diventato chitarra e voce. E allora quindi si sentiva anche la passione con cui veniva cantata questa canzone, proprio segno che i Beatles hanno lasciato il segno. Ecco. Beh, qua. In noi sicuramente, ma vorrei sfidare chiunque a dire che non l'ha assolutamente lasciato. Assolutamente sì, almeno un disco dei Beatles, se non le raccolte in tutte le case, assolutamente ci sono. E allora, Club Voltaire, ricordiamo anche quelli che sono i modi per conoscere ancora qualcosa di più dei Club Voltaire, quindi la pagina, il sito ufficiale clubvoltaire.net, poi ancora su MySpace come Club Voltaire Band, quindi mi raccomando da scrivere anche Club Voltaire Band anche nella ricerca su Google, perché altrimenti vi risulta una mi sembra un'industria di abbigliamento che segue un ma non un solo, cioè, ci sono non anche solo, poi... vabbè, a parte i locali, perché certo, a parte certo. Quello principale di Zurigo, ce ne sono diversi anche sì. In giro per tutta Europa, sì. Quindi vabbè, noi ci trovate lì, ci trovate anche su Facebook, che diciamo che è un po' il nostro per quella che è la parte italiana, diciamo, perché il sito è anche tutto in inglese volutamente, per quella che è la parte la nostra casa base, chiamiamola, è il Facebook, che è facebook.com/Club Voltaire. Ci sono delle date Club Voltaire? Sì, abbiamo fatto tutta una, chiamiamola, serie di date che è iniziata l'anno scorso con l'uscita del disco. Abbiamo girato arrivando fino in Germania per due volte, comunque Nord Italia, la Svizzera, e adesso stiamo proseguendo per questa parte estiva. Avremo delle date nella nostra zona a breve, stiamo definendo anche per una data in Trentino quest'estate, quindi ci stiamo muovendo un po' senza, diciamo, l'assillo assoluto, perché diciamo che appunto vogliamo arrivare al discorso del disco nuovo e quindi concentrarci principalmente su quello. Bene, allora un'altra cosa che volevo chiedervi era riguardo i vostri video, quelli che sono presenti su YouTube, per consigliare meglio gli ascoltatori quale video vedersi, quale potremmo indicare. Ovviamente tutti, quello ci mancherebbe. Certo, certo. Ma diciamo che noi al momento non abbiamo voluto realizzare un videoclip nel senso in cui si intende un videoclip oggi. Abbiamo preferito... in occasione praticamente del lancio del disco di About the Surface lo scorso anno, realizzare un live in studio di presentazione, tre brani. Il video l'abbiamo intitolato Live from the Inside, l'abbiamo registrato in uno studio di un amico che sicuramente era più predisposto quantomeno per dimensioni del nostro, dove proviamo. Abbiamo fatto questo video, poi abbiamo realizzato semplicemente dei mini trailer come quello di cui parlavamo prima, ma semplicemente per favorire un discorso di condivisione video che al momento funziona molto bene sui social network. Sinceramente il videoclip, benché tante volte ci siano venute delle idee, non è al momento una nostra priorità, ecco. Preferiamo piuttosto concentrarci magari su rilasciare più frequentemente delle cose che riguardino espressamente la musica. Lo stesso Live from the Inside, comunque l'audio che si sente è l'audio, cioè, di noi che abbiamo live. Registrato in studio, quindi è proprio un vero, cioè un vero proprio live. È un esempio che noi prima abbiamo parlato di Radiohead, il discorso è molto similare a ciò che loro hanno realizzato, non solo loro, comunque grazie al loro produttore che è Nigel Goodrich, quindi partendo da quello, anche quel From the Basement, quando con diversi gruppi ha realizzato queste performance intime. O comunque anche quando ha prodotto il disco di McCartney, Chaos in Creation in the Backyard, facendo la presentazione di Abbey Road, il discorso di avere una presentazione live che proponesse quello che è il disco e quello che siamo noi live, quindi entrambe le facce, e in un discorso più intimo, più, diciamo, un pochino più patinato del semplice ripresa live in un locale, ma che rendesse l'idea di quello che è il disco e di quello che è la band live. Dobbiamo ringraziare necessariamente tutti gli amici talentuosi che ci hanno dato una mano, esatto, in questi anni, perché comunque Anche questo video comunque l'abbiamo girato grazie a degli amici che sono venuti a fare le riprese, chi ci ha aiutato a montare, così chi ci ha dato lo studio, quindi lo stesso il mixaggio del singolo di cui abbiamo parlato, che è uscito proprio all'inizio di questo mese, è stato realizzato grazie a un amico che sostanzialmente, diciamo, ci ha proprio fatto una specie di regalo, ecco, sì, venendo ad aiutarci. Tante sono le persone. E prima di tutto perché noi siamo assolutamente un gruppo con il braccino corto, assolutamente. Siamo un gruppo che cerca assolutamente di incassare più possibile, no, più che altro perché davvero prendo spunto da una cosa che dice Lorenzo, cioè noi cioè quel poco che si può raggranellare serve per investire nella musica. Esatto. Se non ci fossero stati questi amici sicuramente avremmo avuto molti più problemi, per non parlare se non avessimo avuto lo studio, ma dico, se non ci fossero stati questi amici sarebbe stato veramente difficile, quindi tutti ci teniamo comunque a ringraziarli. Beh, noi ci riteniamo sicuramente fortunati, perché sì, a parte il discorso dello studio, cioè, abbiamo avuto la capacità di costruirci quello che abbiamo fatto fino adesso investendo solo, cioè a parte del gran tempo, ma investendo solo quello che ci permetteva di, cioè che ci rientrava dalle date live, quindi cercando di centellinare le cose, sviluppando ogni situazione, curandola al meglio, quindi il discorso è noi facciamo, riceviamo, investiamo, quindi sì, il discorso se considerate questo, quanto viene pagato un gruppo live, che va a suonare, avete capito, quindi con quanto abbiamo fatto, esatto, certo, molto poco, molto certo, poco. Certo. Vabbè, allora diamo spazio ancora alla musica dei Club Voltaire, ci siamo ascoltati gran parte del repertorio, manca solo una canzone, la traccia numero 7 di About the Surface. Vogliamo Sense dirne il titolo? Sense of Breeze, eccola qua. Blu Radio Sera. Guns down, living in my head, red bound butterfly on top, posing on a shelf, on left flying. We'll be right back. breeze. All you need is another rise. When elbows a part of you, I remember only lies. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bella intensa anche questa canzone, Club Voltaire About the Surface, questo è il titolo dell'album datato 2011, Sons of Breeze, questa canzone dove si dice, traducendo liberamente in italiano, il tutto comincia con un'atmosfera quasi shakespeariana, con un parco assolutamente verde, il solito profumo e poi cosa di più? Ma in realtà è proprio il solito intento di voler creare un'immagine, come quando, appunto, come dicevo prima, ad essere davanti a un quadro, l'idea, davanti a una fotografia, l'idea di crearsi un mondo. E quando ci si è creati quel mondo, quel mood, quella situazione, interpretare il resto, vivere il resto, magari uscendo dagli schemi, senza seguire quello che c'è scritto. Quindi è quella la cosa importante. Abbiamo parlato di quadro adesso, non abbiamo mai affrontato il tema copertina, vediamo di affrontarla brevemente visto che siamo nelle fasi conclusive. Allora, About the Surface è praticamente l'arte non arte, quindi questo quadro dai colori intensi ma nello stesso tempo così buttati, diciamo così. Volevamo qualcosa, sì, che fosse d'impatto, qualcosa che si vedesse. Io vedo sempre la copertina, così come la viviamo tutti, come qualcosa, ok, se fosse in un negozio di dischi tu vedi che cosa c'è, cioè, in mezzo a tutti i dischi, soprattutto adesso che i dischi non si comprano, che cosa mi attira? La copertina, fondamentalmente. Certo, fondamentalmente. Poi questo è sempre valso per me, penso sia sempre valso per tutti. Magari l'idea di prendere in mano un disco che vedi solo per la copertina e guardi cos'è, magari lo rimetti giù, ma magari ti fai attirare dalla copertina. E cosa meglio del colore? Cosa meglio di anche colori buttati lì, mischiati, realizzati molto bene secondo me da una ragazza, Jenny Sarasso, che ha fatto la copertina per noi, che è un'artista, quindi ci piaceva questa tipologia di idea, mischiare un po' il discorso colorato che potesse essere d'impatto. Poi invece la vostra copertina, abbiamo parlato di quella di About the Surface, poi invece c'è la copertina dell'altro disco, cioè di quello nuovo, Beginner Guide to Good Manners, con assolutamente vintage in questo caso, con questa signora con la pettinatura anni... ma non so, adesso non mi intendo mischia di tante moda. Situazioni, perché sì, comunque c'è, in effetti, sì, c'è un discorso un po', ricorda un po' quella Maria Antonietta di Sofia Coppola, cioè quel discorso che mischiasse quel fine 700 inizio 800 con la modernità, perché sì, c'è un po' di tutto, quindi più che altro, come diceva Matteo prima, cioè, ci piace l'idea delle belle donne, quindi c'è, esatto, il discorso sono sempre presenti, sempre c'è un po' di cipria in tutto questo. Sì, assolutamente, sempre tantissima cipria. No, diciamo che anche questo, cioè, così come il primo disco aveva una copertina dove comunque noi consapevoli del fatto che primo lavoro, quindi comunque c'erano dentro magari anche per noi quantomeno tante cose, magari a volte potevano anche sembrare apparire distanziate, no? Allora noi abbiamo pensato proprio all'esempio più classico, senza stare a spremersi le meningi, cioè Tavolozza, colori diversi, questo è il nostro primo lavoro, no? Poi dopo prenderà forma. Ovviamente l'ha presa in una bella donna. No, esatto. non è vero. Invece no, lì semplicemente si lega comunque anche lì molto al titolo e al contrasto tra i due pezzi. Quindi abbiamo voluto, cioè, il titolo dell'album è scritto in un carattere molto grezzo e rappresenta un'anima del singolo. La situazione invece della ragazza ben vestita che beve il tè, quello rappresenta l'altra parte, quella più raffinata e più in qualche modo... Sì, poi vintage in realtà più che l'idea del vintage era proprio l'idea del raffinato, dell'educato, dell'incipriato. Dell'incipriato, sì. Benissimo. Allora, Club Voltaire, purtroppo dobbiamo dire che Big Ben ha detto stop, nel senso che ci siamo ben dedicati a conoscere la vostra musica, purtroppo come tutte le belle trasmissioni c'è sempre... La parola fine, seppur a malincuore dobbiamo... Magari sia bello che ci sia, perché sì, ogni tanto sì, è bello sì. Che arrivi. Beh, abbiamo ascoltato 2 ore di musica, però poi live, naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori, certo, che questa trasmissione si potrà riascoltare, se lo vorrete, all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it. nella pagina dedicata ai Club Voltaire c'è lo spazio per ascoltare la diretta audio e poi anche per scaricare il podcast e quindi ascoltarselo nuovamente anche nelle versioni live dei Club Voltaire e anche nelle cover che ci hanno regalato. Poi naturalmente saranno presenti anche le foto della serata. E, allora, Club Voltaire, buon rientro nella vostra Como. Salutateci anche Antonio e Lorenzo, che sono rimasti a casa ad ascoltare la radio. Salutateci anche i gemellini. Assolutamente, ecco, che... loro principalmente. Ecco, bene, che abbiamo saputo, il papà è Antonio, Antonio, sì, in esatto, questo caso, quindi lui che amava la vita notturna è riuscito anche... ha trovato perfettamente... È difficile trovare dei gemelli in sintonia, no? Di notte. Esatto. Quindi, quindi vabbè, allora, Club Voltaire, però noi adesso lasciamo i microfoni aperti tutti per voi, noi salutiamo e ci regalate un'altra canzone? Beh, sì, vi sì, riproponiamo sì, quello che è il singolo, il nostro attuale... lato A, chiamiamolo del lato A, visto che volevamo chiamarlo in questa maniera, e che è Fluorescent Stream. Benissimo, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, buonanotte a tutti, vi lasciamo con il Club Voltaire, grazie ragazzi e buon rientro. Grazie a voi. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Scratching on the sun, living for the human known. I was scared by the dreams of gold, searching for a precious soul, searching for a precious soul, searching for a precious soul. Tap, tap, tap, the dreams of the door. The sun, living for the new unknown. I will feel by the dreams of gold, searching for a precious soul, for a precious soul. Time, time, time to speak the door, searching for a precious soul. Time, time, time to speak the door. Desire, this fooling down the stream, fresh stream, yeah. And this desire, this fooling down the stream, fresh. Thank you. precious dream, precious dream, precious dream. Blu Radio Sera, Blu Radio Veneto.